angelo, sorridi per me, negli occhi tuoi belli c'è l'azzurro del paradiso, c'è il sole più puro e luminoso nel tuo sorriso, hai la voce d'un angelo disceso dal cielo, dolcissima e tenera, che parla al mio cuore, sei solo tu, soltanto tu, per sempre, visino di angelo, l'amore. Voce d'un angelo disceso dal cielo, dolcissima e tenera, che parla al mio cuore, sei solo tu, soltanto tu, per sempre, visino di angelo. Love.